So make sure you feel grounded. Quindi assicuratevi di sentirvi ben piantati, ben radicati. And lift up through the top of the head, gently. Sollevate il corpo dalla sommità del capo in maniera delicata. Eyes lowered before you, maybe a meter or two. Gli occhi sono bassi e guardano davanti a voi, almeno un metro di distanza o due. The jaw relaxed. La mandibola è rilassata. The jaw, if there's tension around the mouth, give it a good shake. Quindi se c'è tensione intorno alla bocca, dategli una bella scrollata. Lips together, teeth apart. Le labbra sono unite, ma i denti separati. Relax the shoulders. Rilassate le spalle. If there's tension there, give them a good squeeze. Se c'è un po' di tensione, allora strizzatele un po'. E poi rilassate. Bring your attention to the feet, the soles of your feet. Portate l'attenzione ai piedi, alla pianta dei piedi. What sensations can you feel there? Che sensazioni riuscite a sentire lì? Can you distinguish two types? Riuscite a distinguerne due tipi? Pressure. La pressione. Temperature, cool or hot. Temperatura, fresco o caldo. Parts of the soles of the feet you can't feel. Ci sono delle parti sulla pianta del piede che non riuscite a sentire. Can you acknowledge how all the sensations are constantly changing as the body rebalances itself? Riuscite a riconoscere come tutte queste sensazioni costantemente cambiano mentre il corpo cerca di ritrovare un nuovo equilibrio? Can you acknowledge that these sensations arise whether you want them to or not? Riuscite a riconoscere il fatto che queste sensazioni sorgono, che voi lo vogliate o no? So now in the same way, come up the body. Nello stesso modo, portate l'attenzione su per il corpo. Sensations on the surface of the body, inside the body. Sentite le sensazioni sulla superficie del corpo e dentro il corpo. And areas where there seems to be no sensation. Poi andate a quelle zone dove sembrano non esserci sensazioni. feel the breath in the abdomen? Riuscite a sentire il respiro nell'addome? Or the stomach? O lo stomaco? Breath in the chest. Riuscite a sentire il respiro nel petto? A heartbeat. Il cuore che batte. Shoulders still relaxed. Le spalle sono ancora rilassate. The jaw. Anche la mandibola. When you get to the top of the head, scan the scalp just as you did the soles of your feet. Quindi quando arrivate alla sommità del capo, scannerizzate, just feel. Sì, sentite tutte le sensazioni sul cranio, così come avete fatto con le piante dei piedi. Keeping your eyes lowered on the ground, launch your attention outward. Put your attention completely out there. Quindi tenendo gli occhi aperti sul pavimento, lanciate fuori, buttate fuori l'attenzione, quindi ponete la vostra attenzione al di fuori di voi. Become aware of shapes and colors. Quindi diventate consapevoli delle forme, dei colori. Sounds, i suoni, a sense of other people, la sensazione di avere altre persone intorno, the atmosphere of the room, l'atmosfera della stanza. Now at the same time become aware of what is in the body. Adesso allo stesso tempo diventate consapevoli di quello che c'è dentro il corpo. Feelings in the body, the breath and so on. Le sensazioni nel corpo, il respiro e così via. So you have a global awareness, both the inside and the outside. In modo da avere una consapevolezza globale sia dell'esterno che dell'interno. Just relax into this present moment, wide awake. Rilassatevi in questo momento presente, pienamente svegli. In this mode, relaxing in the present moment, wide awake, we don't have to achieve anything. Quindi con questa modalità, rilassandoci nel momento presente, pienamente svegli, noi non dobbiamo raggiungere o ottenere nulla. When we're achieving something, we're always doing something now for some future result. Quando cerchiamo di ottenere qualcosa, noi facciamo qualcosa adesso per avere un risultato futuro. Being here like this, awake in the present moment, is the result, is the achievement. Essere qui nel momento presente, pienamente consapevoli, è il risultato, è ciò che vogliamo ottenere. Relaxing, relaxing into the present moment, wide awake. Quindi si tratta di rilassarsi, rilassarsi nel momento presente, pienamente svegli. In this mode there's no future, so there's no need to plan. In questo modo non c'è futuro, quindi non c'è bisogno di programmare. We have already arrived. Noi siamo già arrivati. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassiamoci nel momento presente, pienamente svegli. In this mode we are not responding, we are not reacting. Quindi in questo modo, con questa modalità, noi non stiamo rispondendo, non stiamo reagendo. And because of this, we don't have to present a personality. E grazie a questo noi non dobbiamo presentare una personalità. We don't have to be somebody. Non dobbiamo essere qualcuno. Relaxing into the present moment, wide awake, achieving nothing, going nowhere, being nobody. Rilassandoci nel momento presente, pienamente svegli, non cercando di ottenere nulla, non andando da nessuna parte, ma non cercando di essere nessuno. In this mode we are developing four factors that lead to liberation. In questo modo noi stiamo sviluppando quattro fattori che conducono alla liberazione. Awareness. Quindi la consapevolezza. Calmness. La calma. Steadiness of attention. La fermezza dell'attenzione. This is, I think, a phrase better than the word concentration. Io ritengo che questa sia una frase migliore che non la parola concentrazione. I think when we use the word concentration, we tend to get tight. Che quando usiamo la parola concentrazione tendiamo a diventare un po' tesi. It's just the ability to keep the attention steady on the object. Piuttosto è l'abilità di mantenere l'attenzione ferma sull'oggetto. And the quality of equanimity. Infine, la qualità della equanimità. Equanimity here means not coming from a place of I know. E per equanimità qui si intende il fatto di non partire dal luogo, quindi dal presupposto del io so. It's coming from a place of don't know or not sure. Ma piuttosto si parte dal presupposto del io non so o non ne sono sicura. It means that we have an open-minded, open-hearted attitude. Vuol dire che abbiamo un atteggiamento di cuore aperto e di mente aperta. Without opinion and prejudice. Senza opinioni e senza pregiudizi. One of the benefits of being able to access this mode is to see an intention. Uno dei benefici nel riuscire ad accedere a questa modalità di essere è di riuscire a capire le intenzioni, di vedere le intenzioni. Intention in the Buddha's teaching is where our conditioning begins. E secondo gli insegnamenti del Buddha, le intenzioni sono il luogo da cui è il luogo da cui cominciano i nostri condizionamenti. If we see an intention and we see it unwholesome, we can just let it exhaust itself. Se noi vediamo la nostra intenzione, la riconosciamo come non salutare, allora possiamo semplicemente aspettare che si esaurisca. If we see an intention which is wholesome, we can empower it. Quando notiamo un'intenzione salutare, noi possiamo potenziarla. Just in this way we can completely change ourselves. Anche semplicemente in questo modo noi possiamo completamente cambiare noi stessi. All we have to do is to relax into the present moment, wide awake. Tutto quello che dobbiamo fare è rilassarci nel momento presente, pienamente svegli. This exercise you can take into daily life. Questo è un esercizio che potete portare nella vostra vita quotidiana. Just to stop. È un semplice fermarsi. Relax into the present moment and open up. Rilassarsi nel momento presente e aprirsi. So now the next intention will be to sit. E quindi la prossima intenzione sarà quella di sederci. So take your time and make every action deliberate. Quindi prendetevi il vostro tempo, fate in modo che ogni azione sia deliberata, sia intenzionale. Yeah. Know what you are doing. Quindi dovete sapere ciò che state facendo. Intending to sit. Intenzione di sedermi.